Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Se questa storia non c'è più, perlomeno sembra, l'hai cancellata un tratto tu, quando sei andata via così, senza parlare. Io, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, voi sentite questa voce che in qualche modo avvicina, dà l'indizio per capire chi c'è qui con me, ma dall'altro anche può sviare. Ecco, non è tanto il contenente, come si può dire, che ci fa capire chi è l'ospite, ma il contenuto. Adesso non vorrei azzigogolarmi, però voi chissà quante volte avrete sentito l'espressione usata, quella di mostro sacro. Ecco, io qui, signore e signori, ragazze e ragazzi, ho un mostro sacro in carne ed ossa. Non ha le antenne, non ha le squame, ma è un ospite straordinario che non so come si definirebbe, ancora prima di dire il suo nome mitico. Non so, come sai che mi sono... Vedi i brufoli adolescenziali, mi sono venuti nella tua attesa. Sì, ecco. Una balla tremenda. È vero, stanotte mi sono venuti. No, io direi che intanto mostro sacro... Se sono brutto, ma non mi pare di essere un mostro, e tantomeno sacro. Comunque, un po' di sacralità. Sì, tu desideravi che mi definissi con un aggettivo, è che io non sono capace di farlo. Però posso dire che Panorama, 7-8 anni fa, che sotto la fotografia di ogni persona cercava un aggettivo, sì, sotto la mia fotografia scrisse essenziale. Essenziale, io direi fondamentale più che essenziale, che dici tu? Mi sembra che esageri un po', comunque. Infatti, come avrebbe vissuto la musica italiana senza Giulio Rapetti in arte Mogol? Ecco, in arte è già sbagliato, perché io mi chiamo Giulio Rapetti Mogol. Hai ragione, perché e c'è poi... stato un decreto proprio del governo, sì, una cosa sì, importante. Sì. Non che è un decreto del governo, comunque è un'autorizzazione del Ministero degli Interni. Una disposizione, insomma, autorizzazione, sì. Mogol è qui non soltanto, ovviamente per farmi il grande onore anche a voi, pubblico di Radio 24 e di Storielle, ma perché... con la sua vena creativa infinita e con il suo entusiasmo e con la passione per questo lavoro che non l'ha mai abbandonato in questi 40 anni, ha avuto voglia di creare ancora qualcosa di nuovo. Ed è la cosa curiosa è che vi farà un certo effetto ascoltarlo questo album, e ascoltatelo perché è veramente bello. Che cosa ha fatto? Lo ha fatto, intanto è la prima volta che dai il titolo insieme al gruppo con cui hai collaborato a questo album. Sì, no? Non sono io, è un'idea del coproduttore che è Francesco Migliacci, sì, che mi ha proposto, questa idea è piaciuta anche alla Carosello Records, che ha fatto uno sforzo grosso di produzione, perché questo è un disco con Phil Palmer, con grandi messaggi fatti negli Stati Uniti, no? Sì, c'è tutto un lavoro, per cui hanno pensato di mettere il mio nome davanti a quello di Audio 2, perché almeno mettiamolo dietro, chiamiamolo Audio 2 più Mogol, no? Mi dice, invece Mogol Audio 2 secondo me suona meglio e forse è anche più giusto. Ma sembra di sì, perché addirittura c'è stato un giornalista che ha fatto tutto un articolo dicendo finalmente gli autori hanno un ruolo, perché oggi, diciamo nel mio caso, pretendere di essere citato non è così importante, ma pensate ad un autore che tutta la vita spera, fa una canzone, poi se la sente suonare mai sente il suo nome. Veramente. Il tuo Mogol lo sa tutto il mondo. Non posso piangere per questo. Però pensate a un ragazzo. Adesso, pensa che tu scrivi canzoni, arriva il momento, ti scoppia il cuore di felicità perché sei al primo posto, nessuno ti nomina. Il cantante sì, ma tu non esisti. No, l'autore non è nominato. Il più grande autore di tutti i tempi italiano, della musica italiana, è qua. Quindi sì. Mogol Audio 2. Quindi Mogol, tu hai avuto voglia di fare questa cosa qui, che ascoltarla fa strano, perché sembra che, in qualche modo, scusa, dimmi se sei d'accordo o no, resusciti quello che è stato il connubio più importante della tua vita dal punto di vista artistico, come tutti sanno, che è Lucio Battisti, no? Sì, no, io non sono d'accordo su questo punto, perché... Perché guarda, gli Audio 2 evocano da tempo, gli Audio 2 mi furono, anni 90. Mi furono... Io mi sono sposato... con una donna che è mia moglie. Che due ha matrimoni una... hai avuto tu? Sì, no? Sì, due matrimoni. Sì. Che ha una sorella gemella monozigota, che è uguale a lei. Perfettamente uguale. Non mi dire che qualche volta allora, si è confuso, no? No, adesso ecco. No. Però lei mi propose di scrivere per gli Audio 2, io rifiutai. Lei, questa, sì, questa, della questa, questa è la storia vera. Ma tu ti sei rifiutato perché? Perché dice, perché, no, mi sembra che... No, perché avevo sottovalutato, devo dire, non metto volentieri l'opera di questi musicisti. Anche se hanno vinto dischi di platino, no? Sì, ma io li avevo sottovalutati perché... Sempre per via del discorso dei cloni di luce, certo, eccetera, certo, eccetera. Ecco, io le dissi, guarda, no, io preferirei non lavorare, non fare queste cose. Poi lei, durante un viaggio in macchina, mi mise infilò, io dico sempre il giradischi, ma non si dice più il giradischi. Che bello che tu dica nell'impianto della macchina, un provino, ma un provino fatto praticamente era la musica di quella che poi si chiama L'ultimo ballo. L'ultimo ballo, che bellissima, questa canzone che sentiremo in conclusione. Ecco, e che mi ha colpito veramente forte. Perché loro hanno fatto la musica. E allora io ho detto, va bene, chi sono questi? E lei mi disse gli Audio 2. Allora ti sei dovuto un po' ricredere. Certo, non potevo non lavorare perché avevo un'idea sbagliata. Questo non è una cosa che ho scoperto io, perché credo che tutti quelli che sentono il disco adesso lo possono capire, voglio dire, perché questi sono musicisti veri, bravi, certo, di livello di bravi musicisti. Io sono abituato a lavorare con Gianni Bella, con Lavezzi, con Tornelli, con musicisti veri. E questi fanno parte di questa categoria. E poi, diciamo, sono arrangiatori, interpreti, così. Un discorso che poi abbiamo cominciato con questa canzone e siamo L'ultimo andati avanti per 10. Dieci canzoni inedite, sì, infatti, inedite, fatto con gli Audio 2, questo duo napoletano Gianni Donzelli, ricordiamo Vincenzo Leonporro. Ma così come facevi con Lucio Battisti e Mogol, anche con loro, la musica, tu hai sentito la musica e ti sono un po' pullulate in testa? Sì, ma le questo parole? Lo faccio sempre. Diciamo che non c'è stata grande differenza, non parlo di valore, non sto parlando di metodo di lavoro. Io ho sempre lavorato, l'unica differenza è che una volta c'era il musicista che suonava seduto sul divano e poi magari s'appisolava fino a che gli chiedevo di ripetere la frase, cosa del genere. Adesso no, adesso ho bisogno proprio dell'arrangiamento preciso, del modo di cantare preciso. Perché? Perché così la suggestione è precisa, certo. L'atmosfera è quella che poi ritrovo quando canteranno il testo e quindi è molto più preciso. E poi sono nate così queste 10 canzoni, fra entusiasmo generale, poi la discografica, devo dire che ha fatto delle cose eroiche, nel senso che di questi tempi scommettere tanto su un disco vuol dire essere eroi. È vero che siamo Mogol dentro, non è che c'è il signor Nessuno. Sì, ma non è una garanzia, credo. Magari dopo, se dovesse succedere qualcosa di importante, potrebbe essere un po' più di credito che acquisisco. Ma chissà, Mogol secondo voi ha bisogno di ulteriore credito? Storielle. Storiacce. È incredibile, ma vero, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ma qui con me Roberta Giordano, c'è Mogol. Mogol che ha appena partorito una nuova creatura con gli Audio 2, si chiama Mogol Audio 2, è uscito in questi giorni questo disco della Carosello Records, molto bello, con delle musiche bellissime e con i testi soprattutto del più grande. Stavo dicendo paroliere d'Italia, ma so che a te non piace questo termine. Non è che non piace a me, non piace a noi. Perché... A voi autori di testi, sì, delle... Noi siamo autori, è come i giornalisti, noi se adesso li chiamassimo scribacchini, no? È un termine che qualche volta si usano per dire senso deteriore. Un po' deteriore. No? È deteriore, perché paroliere non è deteriore. Ma sai, paroliere, a me già le parole, noi come specie umana siamo umani soprattutto perché abbiamo la parola, secondo me. Sì. E quindi io già il termine parola sì, mi piace. Paroliere assomiglia a parolaio. Parolaio. E poi tu sai come vengono al vento, definiti così nei paesi di lingua inglese gli autori di testo, lo sai? No, sinceramente. Lo dico io, lyric writers. Scrittori di liriche addirittura. Così, adesso noi non è che siamo così. No, ma è vero, se non ha scritto delle liriche straordinarie, Mogol, che ha scritto, non soltanto, lo sapete, questo sodalizio meraviglioso con Lucio Battisti, ma ha scritto per Mina, per Modugno, per Gianni Morandi, per Patti Pravo, per Celentano. Tra l'altro, in questo ultimo album, Mogol Audio 2, c'è la prima canzone, che è La voce di un amico, che tu hai dedicato a Celentano, sì, che è un tuo grande amico, hai scritto anche tanti bei testi per lui insieme a Gianni Bella. È bella questa canzone, ma mi sembra che a lui non sia piaciuta tanto, è vero? Ci sono state un po' di polemiche su questa... Sì, c'è stata un po' di polemica, ma però io sono convinto di aver scritto una canzone ironico-affettuosa. Ma quindi, infatti, io l'ho sentita, come mi sembra... Sono parole che io poi ho sempre detto a lui, quindi non è che... Lo spinge a essere più in mezzo alla gente perché è un po' ritirato, bravo, diciamo. Hai capito hai capito tutto. È così, è molto... Diciamo così, è affettuoso, sì. Però forse lui non l'ha ritenuta così, forse non gli è piaciuta proprio la canzone, forse non gli piace la musica, le parole, non so. Però io, siccome è una canzone affettuosa, preferisco che la giudichi la gente piuttosto che essere timbrata e finita solo perché si è dato un giudizio soggettivo. Senti, ma invece più che aprire l'album, cioè, apriamo la tua vita. Tu sei nato nel 1936, sì, a Milano. Milano che marchio ti ha dato? Marchio di rigore, un rigore. Nella mia famiglia era una famiglia piccolina, nel senso fratello, sorella, papà e mamma, figlio di gente per bene che viveva dignitosamente e che aveva un alto senso morale. Però al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Questa è la verità. No? Bellissima, rievocando appunto le tue canzoni splendide con Lucio Battisti. Senti, ti avranno chiesto in questi 40 anni di tua carriera straordinaria chissà quante volte, no, del tuo rapporto con Lucio. C'è qualcosa che tu non hai mai detto di lui? Non ci ho mai pensato cosa non ho detto, onestamente. Voglio dire, le domande sono state così tante. Poi, sai, quando si vive una vita, poi dice di colpo ti fai una domanda generica dicendo che qualcosa che non hai mai detto del tuo fidanzato. Infatti, voglio dire, tu mi guardi in faccia e dici, ma cosa sta dicendo? Sì, è un po' difficile quando sei dentro una cosa. Non lo so, io credo che è stato detto molto. Poi ho letto almeno una decina di libri, li ho letti, qualcuno più serio, qualcuno una volta ho letto un libro, ho letto una pagina, ho letto 10 cose che non corrispondeva a nessuna, la verità l'ho chiuso e basta. Tanto perché... quelli che pretendono di raccontare la vita altrui e quello che si sono dette le persone senza neanche essere stati presenti, no? Probabilmente per sentito dire. Ho sentito dire, guarda, ognuno poi c'ha la sua invenzioncina. Comunque il vostro grande incontro c'è stato nel 1965, no? Giusto, se lo dici tu ci credo, sì, perché sì, non è che mi ricordo granché. Un quindicennio, parlo degli anni, sì, non mi ricordo le date capito? No. Mi pare di ricordare il 1965 e poi avete scritto canzoni meravigliose, Dai giardini di marzo, Emozioni e Penso a te, insomma, le sanno tutte, è inutile elencarle. E poi nel 1980, Come finiscono gli amori, è finito anche questo sodalizio. Questa cosa, che cosa Mogol ti ha fatto capire della vita? Che alla fine tutto finisce, anche le cose più belle, anche se rimangono poi dei segni dentro di te che vanno avanti in eterno finché uno ha vita, no? La vita è imprevedibile, ma questa è una cosa che non è solo questo che me l'ha fatto capire. La vita è imprevedibile. Tu ti fai un iter mentale di un futuro che poi non è. Prende svolte, si muove con una libertà assoluta, fai i disegni di un gabbiano, per parlare così. Senti, tu hai guadagnato più dalla vita, hai avuto più conquiste, più vittorie? Io penso di sì, o anche delle sconfitte, delle amarezze, bilanciato? No. Io ho avuto un destino benevolo. Io, bello questo, bello poterlo dire. Straordinariamente benevolo. Sono cosciente che tutto quello che scrivo non è dovuto solo a una geniale, un modo mio di... No, io penso che noi siamo ricettivi addirittura, più che creativi. Dobbiamo sudare un po' per conquistarci la parabola ricettiva, però io penso che il destino sia attore nella nostra vita. Pensi più il destino o il caso, secondo te? No, io penso il destino. Ah, tu sei convinto che ci sia già un disegno? Ci sono dei disegni che avvengono a seconda dei nostri impulsi, no? Io ho scritto, se mi permettete una piccola citazione, io scrivo aforismi, no? E uno dice: l'intenzione è il seme, la pianta è il regalo del destino. Se a noi, quando mettiamo un seme, quindi poi un po' la nostra volontà, e poi sì, però... se il progetto piace, voglio dire, viene anche aiutato. Poi uno lo chiama fortuna, però c'è un forte coefficiente, c'è una forza, un elemento forte, sì, che agisce. Io lo sento molto presente, forse perché così mi sento sempre qualcuno che mi spinge, quindi... Beh, tu lo puoi dire appunto dopo 40 anni di grandissimi successi, di una vita così eccezionale, continuando ancora adesso. Ma tanto tuo padre Mariano, se non sbaglio, già scriveva testi, lui, io no? No, lui era un editore. Un editore. Lui era un editore. Dirigente di Casa Ricordi, era partito come impiegato di terza categoria, poi in questa società che era una società di musica classica, operistica, no? Lui disse: io vorrei aprire la parte della musica leggera. Gli diedero una scrivania, un telefono, mi disse che tutto l'investimento erano 2 milioni di lire. Ma che al tempo e poi è diventata più importante come incassi della Ricordi Classica. Diciamo. Ma quindi vuol dire che tu sei cresciuto già in un certo momento. Da dove ti è partita questa tua vena straordinaria, creativa per le canzoni? Io lo dico sempre, mi è partita dalle 5.000 lire che mi dava il compenso. No? Davano 5.000 lire per le versioni. Ah sì? Io guadagnavo 42.000 lire. E allora arrotondavo scrivendo. Non erano poche 42.000 lire. Ne erano neanche tante. Neanche tante. No. Di che anni stiamo parlando, Mogol? Dunque, io ho cominciato a lavorare che avevo 18 anni, fa un po' tu il calcolo. Io me mi brucia 36, il cervello a fare calcoli troppo difficili. Negli anni 50, insomma, negli anni 50, sì, non era tantissimo. No, 42.000 lire. Non era. Stipendio, non dico da fame, ma quasi. Tu puoi dire che cosa negli anni passati avevi come uomo e hai perso e che cosa hai conquistato invece con gli anni? Ma no? Io guarda, tutti un po' cambiati. Io ero un uomo affascinato dall'avventura e quando dico affascinato dall'avventura che sono ancora affascinato dall'avventura, però le avventure per me erano anche i rapporti umani. Io li vivevo con grande entusiasmo. Lo slancio. Con grande slancio, curiosità. Adesso io sono uno che preferisce coltivare i sentimenti che ho già, capisci? Sì, preferisco approfondirli, preferisco costruire, preferisco vivere una vita di sostanza. Ecco, questa è la differenza. C'è anche una relazione fra le età diverse, chiaramente, no? Un giovane è curioso, ha impulsi. Ha più ingenuità, più idealismo. Idealismo, ma anche più fascino per la curiosità, per l'esperienza. Per la scoperta. Per la scoperta, per esempio la bellezza delle donne mi paralizzava. Adesso non mi paralizza più. Potrebbe paralizzarti perché tua moglie si arrabbierebbe, credo. No, ma l'ammiro. La donna bella la guardo perché Guardi. Però voglio dire, non è che mi tarantola, perché mi tarantolavano, capisci? Prima io subivo un fascino irresistibile, ma faceva parte, secondo me, proprio del modo di essere, diciamo, fisiologico, no? Ossia, c'è qualche cosa che ti ottenebra il cervello. Una pulsione più forte quando... Io adesso ti faccio questa domanda, se vuoi rispondi, se no, no, Mogol. Ma tu hai detto che hai avuto, dopo la rottura con Battisti, questo dolore, poi quando lui si è ammalato, di non aver potuto incontrarlo per l'ultima volta, di potergli dire, insomma, delle cose. Sì, che però io vorrei che tu sapessi che quando io non scrivevo più Battisti, comunque ci siamo visti e abbiamo pranzato insieme a casa mia. Non è che abbiamo litigato, ci sono state scelte diverse per ragioni, diciamo, difficili da spiegare, perché secondo me ci sono anche delle influenze, dei modi, capito, voglio dire. No, ma anche per cui è vero, come è anche nei rapporti sentimentali è difficile spiegare. È stata una scelta diversa, una scelta rispettosa. Io ho rispettato il suo lavoro, lui ha rispettato il mio e siamo andati avanti così. Ma a te, a distanza di anni, Mogol, ti fa piacere, la senti come una cosa tua il fatto che ti, insomma, associno sempre a Lucio Battisti, o alla fine dici, insomma, sono passati degli anni, ho fatto anche altre cose ed è appena uscito appunto questo album Mogol Audio 2? Ma no, io ti faccio un esempio, non è che bisogno di far questo. Per esempio la canzone più famosa in Italia, che viene più trasmessa da 10 anni, record incassi, si chiama L'emozione non ha voce, che ho scritto con Gianni Bella dopo. Quindi c'è un riconoscimento della gente anche per le canzoni, voglio dire, non è che esiste solo questo repertorio. Poi è naturale che la mia immagine sia più nota, perché Battisti è stato un fenomeno culturale popolare grandissimo, quindi è logico. Però voglio dire, non posso dimenticarmi di aver scritto con grandi autori, Lavezzi, Gianni Bella, ho scritto per Coccianti, per tanta gente. Ecco, quindi, diciamo, una lacrima sul viso, è vero, l'hai scritta tu? Sì, sì. Quindi, insomma, possiamo avere proprio un repertorio, un inventario enorme. Ma adesso, in chiusura, caro Mogol, questa che tu vedi è la lampada di Aladino. Sì. Se tu dovessi esprimere un desiderio, nonostante tu dica che la vita, il destino è stato benevolo con te, hai avuto tanto e continui ad avere, però un desiderio che ti viene in mente in questo momento... Sembra una caffettiera. Sì, poi dopo vediamo se c'è una goccia di caffè. Piccola, diciamo, una cucuma. Che si contiene il caffè che mi avevi promesso prima. Sì, no, quello senz'altro. No, promesso è debito. Va bene. Allora, diciamo che per quello che ho ricevuto nella vita, grandi desideri, a parte quello di avere la salute dei miei cari, anche personalmente, e tutti i miei amici, io non ho un grande desiderio. Cioè, mi va bene così com'è. vita di oggi, mi sento un privilegiato. Mi sento una privilegiata anche io averti avuto qui, Mogol. Grazie, ti molto ringrazio. Gentile. Bacio. Bacio, ciao Mogol. Comunque è sempre sincera, come un vento freddo di primavera, e tu lo sei già stata, stasera con me è sempre ancora più bella, in questo lungo istante, che bello poi non è.